Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. La mucca non dà latte. Le scarpe mi stanno strette. E invece di andare, perché invece di andare a fare le strade, mi fanno le porcherie come i bus per conta e poi mi fanno i comitati anche. Ma se ne devono andare a casa, ma come fanno a presentarsi davanti a un popolo? Ma è una vergogna, Ciccio. Sono venuti al comune, vi prego di non interrompermi, sono venuti al comune di Ragusa a presentare l'adesione al comitato Romus, li ho mandati a calci in culo perché è davvero una vergogna. Gli ho detto che non aderisco a nessun comitato, lo sapete perché? Perché il comitato l'hanno fatto coloro e lo fanno coloro che hanno permesso questa porcheria. Le strade no, e fanno la porcheria delle... Che cosa fanno? Investono nella comunicazione. Ma se ne devono andare a casa davvero tutti quanti. Lo sapete? Lo sapete? Lo sapete così cosa ho risposto a un ordine del giorno presentato dal segretario del Partito Democratico della città di Ragusa? È aria fritta. Io faccio un ordine del giorno dove dico che al presidente Lombardo deve immediatamente sospendere questa porcheria. Loro non lo possono fare perché si cicoricano tutti i giorni. Questo Partito Democratico è un partito che fa schifo proprio per questo. Il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.